Questo testo, dal titolo Mostri di acqua dolce, è stato tratto da una rivista per ragazzi. Di seguito lo troverai suddiviso nei suoi vari paragrafi. Paragrafo 1. Mentre nelle acque del mare la maggior parte di noi si sente a proprio agio, laghi e fiumi sono da sempre guardati con timore e sospetto. Correnti, mulinelli, sponde viscide, acque scure e minacciose. Non c'è perciò da stupirsi che siano sorte leggende di ogni tipo, con creature mitiche e mostri spaventosi. In realtà, le acque dolci sono solo ambienti poco conosciuti. Quanti di voi hanno provato a mettere la maschera e andare a esplorare i fondali di un lago o di un fiume? Eppure, anche questi luoghi sono pieni di sorprese e i temuti mostri sono spesso creature bizzarre e affascinanti.